È ora di pranzo. Che fame. Sì, io ho anche sete. Fa troppo caldo qui. Sei sempre il solito, non sei mai contento. Ah, ecco Lorenzo e Sara. Che caldo. È vero, fa caldo, vero Marina? Sì, fa caldo. Allora, Sara non ha fame? Sì, ho fame. Bene, andiamo alla trattoria di fronte. Ho prenotato un tavolo.